trascine la nostra vita, se non sono appunto di respiro, per sognare, per poter ricordare quel che piange. Tu senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai niente, non hai mai tutto ormai nelle tue mani, ma anche senza fine. Non mi guarda te la luna, non mi guarda te le stelle, c'è più pensi, una stella, tu thank you.